punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità. Buongiorno da Alessio Maurizi. 7 giorni sulle montagne russe per la riforma del mercato del lavoro in Italia, quelli che abbiamo appena vissuto. Le perplessità dei sindacati ad inizio settimana, poi il disco verde sui nuovi ammortizzatori sociali con sostegni al reddito per i lavoratori che perdono il posto. Poi ancora però una frenata venerdì da parte della CGIL sull'articolo 18. Sullo sfondo ci sono poi le perplessità delle piccole imprese che mal digeriscono l'aumento dei contributi. Così invece a metà settimana il ministro Elsa Fornero manifestava questa incertezza con una frase che però lascerà qualche strascico di polemica. Se c'è un accordo più avanzato, io mi impegno a trovare, l'ho detto, risorse adeguate a fare in modo che questo meccanismo di ammortizzatori e questo mercato funzionino abbastanza bene. Questo è. È chiaro che se uno comincia col dire no, e perché noi dovremmo mettere lì a dire una paccata di miliardi e dire poi voi diteci di sì? No, non si fa così. Dunque la settimana che abbiamo appena vissuto ha visto i movimenti di avvicinamento ma anche di resistenza per un accordo sul lavoro che in Italia è atteso con l'obiettivo ambizioso di rilanciare l'occupazione da un lato e tutelare i disoccupati e i precari che stanno risentendo in modo particolarmente grave della crisi economica dall'altro lato. Settimana caratterizzata però anche dalle fibrillazioni dei partiti di maggioranza divisi su argomenti come la giustizia e la RAI. Dopo un iniziale periodo di forzata convivenza iniziano insomma ad emergere alcune divergenze, tanto da far parlare a bassa voce qualcuno di un inizio di campagna elettorale anticipato e quindi di ore contate per il governo, ma forse invece è solo l'effetto del voto per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio. Affonda poi sempre di più la regione Lombardia sotto i colpi della corruzione, presunta ovviamente fino a che non ci saranno delle sentenze, ma intanto sono già 9 i consiglieri indagati da inizio legislatura e qualcuno inizia a parlare di nuova Tangentopoli, mentre proprio in questa settimana un rapporto dell'OCSE, se ce ne fosse bisogno, chiarisce che per l'Italia la corruzione è un peso insopportabile anche da un punto di vista economico. E poi all'estero la settimana ha visto il candidato repubblicano verso la Casa Bianca Romney rallentare la sua corsa verso la nomination perché è stato sconfitto alle primarie di Mississippi e Alabama, vinte dall'altro candidato, l'ultra conservatore Santorum. Punto e a capo. Questa settimana si è aperta, come dicevamo, con il vertice tra il ministro Fornero e le parti sociali. Si inizia a delineare quella che sarà la riforma del mercato del lavoro, ma sembra più che altro una falsa partenza. Le aziende criticano infatti l'accorciamento del tempo di transizione tra uno Stato e l'altro e i sindacati invece parlano di passi indietro, così lunedì. Sono le battute finali, ma l'accordo sembra ancora lontano. Il governo accelera e fissa il 23 marzo come scadenza tassativa per chiudere la partita sul mercato del lavoro. Non solo, anticipa la riforma degli ammortizzatori sociali a regime dal 2015 anziché dal 2017, con l'arrivo di una nuova indennità di disoccupazione per 12 mesi a 1.119 euro che sostituirà tutti gli strumenti oggi in campo, compresa la mobilità, tranne la cassa integrazione ordinaria e una parte della straordinaria. Scompare infatti quella per cessazione di attività. Un anticipo che non piace né alle imprese né ai sindacati, la leader di Confindustria Marcegaglia. Il periodo di transizione è più breve e questo è un problema. Scettico anche il leader della CISL Bonanni. Con l'innalzamento così alto dell'età per andare in pensione, con una crisi così forte che fa chiudere aziende, arrivare a quello che dice il ministro significa davvero una vera e propria ecatombe. Mentre Camusso, CGIL, parla di vero e proprio passo indietro nella trattativa. Durante la crisi una parte consistente di lavoratori e di lavoratrici avrebbero una riduzione delle coperture. E intanto resta sempre il nodo dell'articolo 18 che verrà affrontato a partire da oggi con una serie di incontri bilaterali, ritmo serrato in vista dell'appuntamento di lunedì in cui le parti sociali incontreranno Monti a Palazzo Chigi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E mercoledì c'è un nuovo round di trattative tra il governo e i sindacati. Finalmente si accende il semaforo verde. CGIL, CISL e UIL sembrano infatti soddisfatte, forse anche dalla cosiddetta paccata di miliardi annunciata dal ministro Fornero, forse fino a 4 miliardi per i nuovi ammortizzatori sociali. Ministro del Welfare che fiduciosamente annuncia: chiuderemo la settimana prossima. Solo 48 ore fa sembrava che il confronto fosse ad un passo dalla rottura. Dopo il nuovo vertice convocato a sorpresa ieri mattina, arriva invece una schiarita fra governo e sindacati sulla riforma del mercato del lavoro. Il ministro del Welfare Fornero si è detta ottimista sulla possibilità di arrivare ad un accordo entro il 23 marzo ed ha assicurato che le risorse per i nuovi ammortizzatori sociali ci sono. A me, se devo dire, sembra realizzabile a oggi un accordo. Io lavoro per questo e penso che forse lo potremmo fare già la prossima settimana. Massimo Riserbo, invece, da sindacati e ministro, sui contenuti dell'incontro, definito comunque utile da tutti i partecipanti, a partire dalla numero uno della CGIL, Camusso. Mi pare che stiano maturando cose positive. È ricominciato un confronto utile. Utile e costruttivo, in cui c'è un impegno davvero universale. Positivo anche il giudizio del leader della CISL Bonanni, dal quale è arrivata anche un'apertura ad una ristrutturazione dell'articolo 18. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E l'articolo 18 resta però centrale in tutta questa trattativa, così a 9 in punto da Oscar Giannino, il segretario della CISL, Raffaele Bonanni. Intanto la volontà di tutti i soggetti di levarci di dosso questa storia interminabile dell'articolo 18, alcuni che ritengono che questa storia addirittura può provocare un disastro sociale qualora si facesse solo manutenzione, e altri che ritengono che addirittura abolirlo significa avere milioni di assunzioni. Ambedue le posizioni sono davvero, davvero stucchevoli. E sta prevalendo la opinione che la ristrutturazione si può fare, tra l'altro è conveniente per lavoratori e imprese. Penso per esempio al fatto di accelerare i tempi. Beh, se si accelerano i tempi, si usa, come si dice, il criterio tedesco, il giudice decide rapidamente, con tempi contingentati, come succede già, è un termine tecnico per l'articolo 28 già in vigore in Italia, e lo fa addirittura valutando se un caso grave il reintegro, se un caso meno grave l'indennizzo equo, mi pare la soluzione più ragionevole. Con una fava si prendono due piccioni. E a dare il disco verde alla riforma del lavoro, giovedì notte anche il vertice tra i partiti della maggioranza, Partito Democratico, PDL e Terzo Polo. Sentiamo invece sul fronte politico e parlamentare una voce fuori dal coro, a 24 mattino, Antonio Di Pietro. Premesso quindi che del ministro Fornero io ho rispetto e anche stima, non contesto il merito, non le parole con cui lo dice. Il merito è che non è che cambiando l'articolo 18 che l'Italia si rilancia l'economia e si rilancia e si combatte la recessione, ma è contrastando la corruzione, il malaffare, rilanciando e dando incentivo al sistema delle piccole e medie imprese, andando a vedere cioè quali settore fa intervenire per rilanciare lo sviluppo, non è quelli 5-600 i licenziamenti per asserite giusta causa. Però ci sarà quella rigidità del mondo del lavoro che blocca un po', anche, cioè, voglio dire, di corruzione si occuperà, che ne so, il ministro della giustizia. No, scusi, abbia pazienza. Io ho detto di corruzione, ma non è solo la corruzione. Le liberalizzazioni, voglio dire, io avrei preferito intervenire per cercare i soldi e per rilanciare il sistema Italia, avrei preferito dire alla BCE che quando le nostre banche vanno a prendersi paccate di miliardi all'1%, poi non lo ridiano al 5 al 7% al sistema, o non ci vanno a comprare i bot e quindi fanno soltanto speculazione finanziaria. Di Pietro, lei sta parlando come Alfano, lei sa che Alfano dice dai, le banche diano i soldi alla gente. Alfano, voglio dire, ha avuto parecchi anni insieme al suo capo di cambiarla questa norma, invece mi pare che sia stata a guardare. È troppo facile fare opposizione dopo che per 8 anni hai governato e non hai fatto quel che chiedi di fare come opposizione. Voglio dire, bisogna guardarsi prima allo specchio. Punto e a capo. Ma dicevamo, la politica, anzi i partiti a dir la verità, tornano a farsi sentire in questa settimana. Il premier Mario Monti, dopo aver rimandato l'incontro perché il segretario del PDL Alfano non era disposto a parlare anche di Rai e di giustizia, convoca alla fine i tre leader, Bersani, Casini e appunto Alfano. Alla fine sembra che anche questa volta Monti sia riuscito a mettere tutti d'accordo. Prima di dare conto però di questo importante vertice notturno a Palazzo Chigi, sentiamo come arrivano a questo incontro i tre segretari Alfano, Bersani e Casini. Lo sosteniamo lealmente e lo sosteniamo in opere e omissioni. Le opere sono le azioni concrete per sostenere il governo Monti. L'omissione è quella che noi facciamo quando evitiamo di partecipare a discussioni che possano complicare la vita al governo Monti. Il Paese non può permettersi, davanti ai problemi che ha, una recessione incombente, un liberi tutti. Ecco. Quindi noi sospingeremo con anche qualche argomento di contenuto perché all'accordo si arrivi, è assolutamente necessario. Delimitare la possibilità del governo di intervenire su una materia o sull'altra significa volerlo deliberatamente mettere in difficoltà. Un accordo sulla giustizia e sull'articolo 18, fumata nera invece sulla riforma della RAI con il Partito Democratico che vorrebbe superare la legge Gasparri. Questi i risultati, a quanto si sa, dell'incontro tra Monti, Alfano, Bersani e Casini, immortalato tra l'altro per la prima volta pubblicamente con una foto che è apparsa su Twitter. Un vertice lungo 5 ore e mezzo, con accordi cruciali per la tenuta del governo, ma sulla RAI è stallo e il premier Mario Monti si dice soddisfatto al termine della riunione con i leader di maggioranza Alfano, Bersani e Casini. Cambierà il mercato del lavoro con la semplificazione delle tipologie contrattuali, la revisione degli ammortizzatori sociali e sull'articolo 18 si va verso il modello tedesco. Il reintegro sarebbe previsto solo in caso di licenziamenti discriminatori. Per quelli economici ci sarebbe l'indennizzo e per quelli disciplinari deciderebbe il giudice. Durante la riunione la riforma fiscale viene presentata poi dal vice ministro all'economia Grilli, intesa anche sulla giustizia. In arrivo un emendamento al disegno di legge corruzione. L'intervento riguarderà le norme relative a quella fra privati e alla revisione della pena sulla corruzione. Si potrebbe poi rivedere il reato di concussione e si troverà anche una soluzione sulla responsabilità civile dei magistrati con un emendamento al Senato. Probabile poi un nuovo disegno di legge sulle intercettazioni. Infine il capitolo RAI, dove non c'è accordo, tutto viene rinviato alla prossima riunione. Il PD vuole procedere alle nomine seguendo la legge Gasparri, il PD è contrario. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Palazzo Chigi. Indietro di 30 anni, così i giornali con foto d'epoca dei primi anni 80, come per esempio questa Loretta Goggi, giunta seconda al Festival di Sanremo nel 1981. Così appunto la stampa ha accolto la notizia, elaborata dal Centro Studi di Banca Intesa San Paolo, e cioè che la spesa delle famiglie è tornata oggi ai livelli di 30 anni fa e non è una buona notizia, con bollette e consumi di carburanti che erodono il potere d'acquisto sulla spesa per i generi alimentari a un livello che appunto ci riporta indietro di 30 anni. A Focus Economia l'intervista a Fabrizio Guelpa del Centro Studi di Intesa San Paolo. Da diversi anni ormai che la spesa per consumi alimentari sta scendendo, forse la notizia non è tanto sul 2011, il crollo c'è stato nel 2008 e 2009. Quello che colpisce è che i consumi alimentari sono tradizionalmente considerati come non comprimibili. Ecco, oggi forse è un po' meno vero, sono un po' meno non comprimibili nel passato, perché le famiglie stanno indubbiamente facendo dei sacrifici, sacrifici sul fronte della qualità, ad esempio comprando nei discount, alcuni prodotti tipo i tabacchi sono spesi di meno, però c'è anche un lato diciamo positivo, nel senso che si riduce la spesa senza sacrifici, c'è indubbiamente una maggiore attenzione a sprecare di meno in campo alimentare, ci sono degli sprechi enormi sia sugli prodotti freschi che sui conservati. E poi c'è un fenomeno nuovo che credo che sia molto interessante, c'è un maggior ricorso diretto ai produttori, quelli che siamo farm market, i chilometri zero, che allo stato attuale non pesano ancora molto, però possono essere un fenomeno abbastanza interessante. Punto e a capo. E proseguiamo il riepilogo delle notizie di questa settimana che si è appena conclusa. Dopo il caso Boni, il presidente del Consiglio regionale Lombardo, ricorderete, indagato per corruzione, un altro caso di corruzione presunta è scoppiato ed è piombato sul Pirellone, sede della regione. Sentiamo quale. Avrebbe intascato una tangente da 10.000 euro Angelo Gianmario, consigliere regionale del PDL in Lombardia, indagato dalla Procura di Milano per le ipotesi di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Emerge anche che ci sarebbe stata una promessa di una mazzetta da 30.000 euro in relazione ad appalti sul verde pubblico in Brianza. Il filone d'inchiesta nasce da un'indagine monzese del 2008-2009 nei confronti di una ventina di persone, tra cui molti imprenditori della floricoltura. Il consigliere Gianmario è il delegato del governatore Roberto Formigoni alle relazioni con l'area metropolitana di Milano, ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Ambiente e fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi. 50 anni di Molfetta, nel 1997 è stato anche consigliere comunale a Milano. La sua abitazione e il suo ufficio al Pirellone sono stati perquisiti ieri mattina dai carabinieri. Con lui salgono a 9, su un totale di 80, i membri del Consiglio regionale della Lombardia che risultano indagati. Non ci sono notizie ufficiali, quindi non commento, è stata la prima reazione di Roberto Formigoni. Attendiamo l'esito delle indagini, gli ha fatto eco il capogruppo del PDL al Consiglio regionale della Lombardia, Paolo Valentini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro caso tra corruzione e politica è quello di Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, che avrebbe fatto sparire alcuni milioni di euro. A metà di questa settimana ci sono stati nuovi sviluppi che hanno coinvolto Francesco Rutelli. Il primo è del novembre 2009, l'ultimo del luglio 2011. Tutti sono al di sotto della soglia che faceva scattare controlli incrociati. Una sfilza di bonifici per un totale di 866.000 euro sarebbe arrivata alla fondazione di Francesco Rutelli, mittente l'ex tesoriere della Margherita, quel Luigi Lusi che dopo essere finito sotto inchiesta ha sussurrato che il centro-sinistra rischierebbe di crollare se i suoi segreti uscissero dai forzieri. Quelli che invece li avrebbero già abbandonati, i forzieri, sono i soldi girati alla Fondazione Centro per un Futuro Sostenibile, messa in piedi da Rutelli. E proprio il 13 novembre, due giorni dopo la nascita del suo API, in seguito allo strappo col PD, sono arrivati i primi 48.000 euro. Molto più pesanti gli altri bonifici, ma tutti sempre al di sotto del tetto da 150.000, che avrebbe fatto scattare, come da statuto della Margherita, verifiche incrociati. Da Lusi neanche un centesimo, contrattacca ora Rutelli, convinto che questa sia un'opera di depistaggio dello stesso politico indagato. In una lunga nota preannuncia querele all'Espresso e scrive anche che nel pieno delle regole il tesoriere della Margherita ha finanziato, tra centinaia di iniziative, anche il Centro per un Futuro Sostenibile, ma è arduo, rincara Rutelli, dire che meritino biasimo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E due giorni più tardi, per l'esattezza venerdì, l'ex presidente della Margherita Francesco Rutelli si è recato a Palazzo di Giustizia a Roma per incontrare il procuratore aggiunto Alberto Caperna e depositare un esposto nei confronti proprio dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi. Sono qui e sono arrabbiatissimo, ha voluto dire Rutelli ai cronisti. E proprio questa settimana l'OCSE rilancia l'allarme sulla corruzione in Italia, che ha spiegato in un'audizione alla Camera il capo economista dell'Istituto di Parigi, è un vero e proprio freno alla crescita. Sentiamo. In Italia l'elevata corruzione è un freno per la crescita. È quindi essenziale la lotta contro questo fenomeno, che produce un costo in termini di competitività. Questa disamina poco lusinghiera per il nostro paese è arrivata ieri dal capo economista dell'OCSE, Pier Carlo Padoan, nel corso di un'audizione in commissione bilancio alla Camera. La corruzione, ha ribadito Padoan, è tra le cause che spiegano la bassa crescita in Italia. Per questo la lotta alle bustarelle, a suo avviso, dovrebbe assolutamente entrare nel pacchetto di quelle riforme considerate prioritarie per il nostro paese. Inoltre, sul PIL italiano grava il peso, sempre secondo Padoan, dei costi della giustizia amministrativa, che, se avesse tempi di funzionamento meno lunghi e complicati, potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo. E tra gli altri problemi del paese, il capo economista dell'OCSE ha sottolineato l'evasione fiscale. Dalla lotta si possono ottenere vantaggi significativi, a suo parere, ma questo deve avvenire senza condoni, perché, secondo Padoan, smentiscono gli sforzi contro l'equità fiscale. In serata, quasi in risposta alle parole di Padoan, il Senato ha approvato con 243 sì e 5 astenuti la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione. Alla Camera tocca ora la ratifica definitiva del documento, stipulato peraltro il 27 gennaio 1999. La Convenzione prevede che l'Italia si impegni a introdurre nell'ordinamento penale misure per contrastare la corruzione. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è da registrare sul fronte della legalità, fortunatamente questa settimana, anche una buona notizia che arriva da un emendamento al decreto liberalizzazioni che introduce il rating antimafia per le aziende. Agevolare l'accesso al credito delle imprese favorendo le realtà produttive dotate di regole di trasparenza e di contrasto all'illegalità. È quanto prevede un emendamento al decreto sulle liberalizzazioni già approvato dalla Commissione Industria del Senato, che introduce un rating antimafia nato da un'idea di Antonello Montante, delegato di Confindustria per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio. Il rating sarebbe attribuito dall'antitrust e diverrebbe determinante in sede di appalti pubblici, finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Niente più zone d'ombra, dunque, rivendica la relatrice al decreto, la senatrice del PDL, Simona Vicari. Una diversa cultura di impresa che non deve essere soltanto un sacrificio per il cittadino, ma deve essere anche, diciamo, un premio il comportarsi in un determinato modo. Credo che, secondo noi, questo, così come anche Confindustria ha detto, sia il modo più corretto per far riprendere la crescita. Mi auguro che il rating della legalità sia recepito dall'Associazione delle Banche, commenta il presidente del Senato Schifani. Dall'ABI replicano: per noi è una norma di civiltà, è una regola di tale rilevanza che è opportuno sia recepita, oltre che nei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, anche nelle istituzioni di vigilanza. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. E ora diamo uno sguardo anche a quanto avvenuto all'estero in questa settimana appena trascorsa. Iniziamo con le parole del ministro degli esteri italiano Terzi sul caso Marò e su quello di Franco La Molinara. Il ministro ha smorzato i toni. Il mancato avviso da parte di Londra sul blitz in Nigeria, ha detto Terzi, non è stato intenzionale. Ho inoltre sottolineato a Hague l'inaccettabilità per l'Italia di non aver avuto indicazioni precise della decisione di far scattare l'operazione. Il collega Eich mi ha personalmente ribadito l'assoluta non intenzionalità di questa tardiva comunicazione e ha aggiunto ai rilievi che gli opponevo che si è trattato del precipitare di una situazione sul terreno e non affatto dal timore che per parte nostra ci si fosse potuti opporre al blitz finito poi così tragicamente. Proprio il ruolo dell'Italia sulla scena internazionale, così come risollevato dai due casi dei Marò e di Franco La Molinara, può essere messo in confronto invece con quanto avvenuto in Afghanistan, dove un soldato americano ha ucciso 17 persone civili per un raptus di follia. A 24 mattino sentiamo il punto di vista di Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di difesa. Vedete cosa fanno gli americani? Gli americani non consegneranno mai il loro militare, lo prenderanno e prima o poi lo portano via, come hanno fatto al Cermis. Loro non finiscono nelle situazioni tipo India, per intenderci. La seconda cosa è che c'è un accordo bilaterale tra i due paesi, per cui i reati commessi dai militari americani vengono giudicati da tribunali americani. Questo lo sanno benissimo a Kabul, ma devono fare un po' di pubblicità alla loro azione dura nei confronti degli americani. Tra l'altro questo era un tema che aveva condizionato la permanenza delle truppe americane in Iraq. L'Iraq non voleva dare questa exemption di giurisdizione e se non l'avessero data gli americani hanno detto beh, noi ce ne andiamo. Ecco, quindi così stanno le cose. Il militare sarà processato sicuramente dagli americani, probabilmente in America. Ci sarà un processo abbastanza farsa, lo puniranno non come dovrebbe essere punito, anche perché in qualunque tribunale il suo stato sarebbe considerato un attenuante. Poi che i suoi capi abbiano permesso a un soggetto del genere di continuare il servizio, questo è un altro discorso. È anche la dinamica, lasciamo perdere perché ci sono mille e un dubbi su come è andata. Ed è stata la settimana anche della nuova tornata di elezioni primarie in America, in Alabama e Mississippi in particolare. A sorpresa, Mitt Romney si vede costretto a rallentare la sua corsa verso la nomination, cedendo il passo all'altro sfidante repubblicano Santorum. Contro ogni previsione della vigilia, le primarie di Mississippi e Alabama incoronano l'ultraconservatore Rick Santorum. We did it again. Ce l'abbiamo fatta di nuovo. La gente comune fa cose straordinarie, dice Santorum soddisfatto. Chi ride assai meno invece è Mitt Romney, che nonostante il dispendio di denaro non solo non vince, ma in entrambi gli stati è terzo, dietro a Gingrich, che infatti lo attacca. Se arrivi terzo in due stati, non sei più il front runner, il favorito. Ma poiché la vittoria è di misura e Gingrich per ora non intende unire le forze a quelle di Santorum, Romney resta complessivamente in vantaggio. In vantaggio sui suoi, però, non sul vero antagonista, Obama, che secondo gli ultimi sondaggi batterebbe sia lui che Santorum, nonostante il continuo calo di popolarità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E per finire la settimana appena trascorsa sul fronte delle notizie internazionali, c'è da registrare purtroppo il grave incidente avvenuto in Svizzera. A metà settimana il cuore dell'Europa è sconvolto da questa tragedia. Mai visto nulla di simile, una situazione orribile. Così il portavoce della polizia ha descritto la scena presentatasi ai soccorritori giunti sul luogo dell'incidente nel tunnel nei pressi di Sierre, dove un pullman che rientrava in Belgio con due scolaresche a bordo si è schiantato contro una parete. Ci sono volute 8 ore per tirare fuori i bambini dalle lamiere, quelli ricoverati, alcuni in gravi condizioni, sono assistiti da un'equipe di psicologi. Nell'impatto violentissimo sono morti anche i due autisti e ora si cerca di ricostruire le cause dell'incidente. L'ipotesi più accreditata sui siti di informazione svizzeri e belgi è quella di un colpo di sonno dell'autista unito alla velocità eccessiva. Un giorno tragico per il Belgio, lo ha definito il primo ministro Elio Di Rupo, mentre il Ministero della Difesa ha messo a disposizione 2 aerei per permettere alle famiglie delle vittime e dei feriti di raggiungere il luogo del disastro. Quello di ieri sera è il più grave incidente stradale registrato in Svizzera negli ultimi 30 anni. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Punto e a capo. La settimana appena archiviata ci lascia in eredità anche un'importante notizia sul fronte del costume, perché c'è una sentenza della Cassazione destinata a far parlare di sé e che riconosce per le coppie di omosessuali il diritto alla vita familiare. Una vita familiare come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e moglie. Sentiamo. Eppur si muove. Seppure l'Italia sia tradizionalmente in una situazione di stagnazione sui diritti delle persone omosessuali rispetto a gran parte dei paesi europei e anche rispetto a buona parte degli Stati Uniti, da un po' di tempo c'è un certo sommovimento. Il dibattito sull'argomento ultimamente è piuttosto vivace, sino alla sentenza fresca della Cassazione depositata in queste ore, che dice: le coppie omosessuali, se con l'attuale legislazione non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, tuttavia hanno il diritto alla vita familiare e a vivere liberamente una condizione di coppia con la possibilità, in presenza di specifiche situazioni, di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. La sentenza arriva in risposta al ricorso in Cassazione di una coppia di uomini italiani, sposatisi all'Aia nel 2002, che avendo chiesto trascrizione del certificato di nozze come atto pubblico al comune di Latina dove sono residenti, hanno ricevuto un rifiuto. La decisione della Suprema Corte, pur rigettando comunque il ricorso della coppia, rappresenta, secondo le associazioni gay, ma anche per diversi politici di centrosinistra, dell'Italia dei Valori e del FLI, una svolta storica, che lancia almeno un ponte verso la risoluzione approvata in questi giorni dal Parlamento europeo, secondo la quale Strasburgo si rammarica dell'adozione da parte di alcuni stati di definizioni restrittive di famiglia, con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli. Non è un atto vincolante, ma sicuramente è destinato a prospettare orizzonti più ampi. Roberta Giordano, Radio 24, il Sole 24 Ore. Una sentenza, questa della Cassazione, che ha avuto origine dal ricorso di Antonio Garullo e Mario Ottocento di Latina, una coppia di uomini sposatisi 10 anni fa in Olanda. Katia Caramelli ha intervistato il primo, Antonio Garullo. Per noi è stato inizialmente una forte emozione, poi dopo è subentrata anche una grande soddisfazione, però, perché tra l'altro per noi sono proprio adesso 10 anni di matrimonio e quindi questa sentenza insomma è stata anche un risarcimento morale

che è una storia che ha dei degli attori anche di prestigio, perché c'è Abbatantuono, c'è Maurizio Micheli, c'è Bebo Storti, e quindi ci abbiamo messo proprio tutto, come si può dire, l'intelletto a fare questa cosa, quindi ci teniamo. Ed è tutto per questa settimana con Punto e a Capo, ci risentiamo sabato prossimo. Buona giornata.